stiamo ad adorare, un cielo a ti pregare, tu con miei consumanti, a tutti quanti, si loda. Prega per noi.